Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sempre lavorato e lavorerò fino a che il Milan mi dà la possibilità di lavorare. In tutte le situazioni mi sono sempre assunto le responsabilità e stasera sicuramente parte della sconfitta, se non tutta la responsabilità è sempre la mia, perché sono il gestore tecnico dello spogliatoio, sta farà le sue valutazioni e poi vedremo. Io ho sempre idee ben chiare di quello che faccio. E comunque lei non prende in considerazione l'ipotesi di rimettere il mandato nelle mani del club? No, assolutamente, anche perché altrimenti l'avrei rimesso già tempo fa. Fatal Sassuolo per Allegri, era partito da lì e lì è sceso dal Milan. Allegri ha avuto la conferma della decisione della società di esonerarlo, cosa che era avvenuta di fatto ieri sera con quelle parole di Barbara Berlusconi, molto pesanti e molto precise. Ebbene, questa mattina, mentre stava andando all'allenamento, che era in programma per mezzogiorno, era in auto, Adriano Galliani gli ha telefonato e gli ha detto: Max, sei fuori. Quindi è arrivato al centro sportivo a un'ora dall'inizio della seduta in programma a mezzogiorno, ha incontrato negli spogliatoi la squadra prima che uscisse il comunicato ufficiale che esonerava lui, preparatore dei portieri Marco Landucci e il responsabile dei preparatori atletici Simone Folletti. Fuori tutti. Fuori, sei fuori. 800240024, voi siete dentro ogni volta, invece tutti convocati come sempre, Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. E Pierluigi Pardo con me. Ciao Pier. Ciao, come va? Benissimo, questa è la notizia, no? Che ci aspettavamo, che di fatto è arrivata ieri sera dopo una partita incredibile ai confini della realtà che tu hai raccontato per Mediaset, no? Sì, una partita, diciamo, molto divertente da raccontare, se non fosse evidentemente perché per i risvolti poi drammatici, ovviamente dal punto di vista di Cosentino. Una partita bellissima sul piano dello spettacolo, delle sorprese, delle occasioni. Sei bellissimo, piena di errori, il confine è sottile. No, assolutamente, pienissima di errori. Mm. La vera domanda, secondo me, sulla difesa del Milan, la vera domanda è forse uno dei motivi per i quali ha pagato Allegri, è perché chiedere difensori, comprare Rami, farlo arrivare a ottobre a Milanello e poi schierare Sabata Bonera. Questa è da quello che so io, è una delle chiavi che è costata la panchina ad Allegri, perché poi dal punto di vista della produzione offensiva il Milan secondo me rimane competitivo, lo si è visto anche ieri, Honda è entrato bene, insomma. Però è chiaro che sia difficile isolare gli episodi, è il quadro complessivo della situazione, cioè Allegri era già stato esautorato all'inizio della stagione se non alla fine di quella scorsa, già si sa che si sapeva ufficialmente dalla settimana scorsa che non sarebbe stato allenatore del Milan l'anno prossimo, quindi non c'era nemmeno mezzo spiraglio. È chiaro che in una situazione di questo tipo la squadra non ascolta l'allenatore, per dirla banalmente, in maniera piatta, e semplicemente questa è stato l'ultima occasione, l'ultimo pretesto se vogliamo, l'ultima risposta dal campo per convincere la proprietà che andare avanti così non era possibile, nemmeno in una stagione in cui non si hanno obiettivi, tanto che per la sostituzione della società Sotti fino alla partita di Coppa Italia mercoledì con lo Spezia, da giovedì ci sarà il nuovo allenatore, ballottaggio Inzaghi, Seedorf con ogni probabilità arriverà, e questa mi sembra l'unica soluzione possibile, dal Brasile Clarence Seedorf per anticipare i tempi, giusto? Sì, tutto torna, è un'altra sottolineatura, diciamo, di carattere politico, secondo me molto importante, visto che uno dei temi di quest'anno è capire la convivenza Galliani-Barbara, insomma il fatto che poi la scintilla che ha scatenato l'esonero di Allegri mediaticamente abbia provocato a Barbara Berlusconi è un segnale forte. Certo. che può essere visto da un lato maestosamente come un'invasione di campo, dall'altra come una prova di personalità di Barbara, insomma scegliete che parte stare, però voglio dire, se le deleghe sono quelle che abbiamo ipotizzato e che in qualche modo sono state confermate, per cui sfera commerciale, sviluppo del brand, merchandising, marchio Milan, Barbara, e sfera tecnica Galliani, beh, una decisione del genere, cioè una dichiarazione del genere la doveva fare Galliani, semmai. Certo, certo. A meno che non ci sia qualcosa di diverso, insomma. Però sta di fatto che mi sembra che la federazione mediaticamente l'ha data Barbara, e ha vinto lei questa battaglia. Tra l'altro io credo che questo tipo di decisione, da quello che può essere il mio polso in questo momento, è anche molto popolare. Mi dispiace dirlo per Allegri, però la mia sensazione è che sta così per Milan di fronte alla partita di ieri. Beh, sì, non, avanti così non si poteva andare, ecco, questo è evidente. E quindi dal punto di vista anche proprio del suo favore personale, della sua immagine, io credo che Barbara Berlusconi abbia fatto una mossa tutt'altro che azzardata. Sì, adesso però appunto sul fronte societario si apre un interrogativo che svilupperemo subito dopo il traffico. Abbiamo anche degli ospiti, perché la domanda che mi faccio io è questa: ma insieme ad Allegri uscirà dal Milan subito anche Galliani? Questa è la domanda che mi faccio. 800240024 strade, poi torniamo. È un giocatore molto, è un giocatore, perché sta ancora giocando, molto intelligente, e un giocatore che può avere le qualità per fare allenatore, però sono due mestieri diversi, bisogna vedere se sarà lui l'allenatore, non lo so. Fuori, sei fuori. Tutti convocati. Sciabolata verso Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Rada! Rada! Rada! Inzaghi! E il Milan ripassa in vantaggio! Alla centro c'è Inzaghi, ma Pirlo era di spalle e non è riuscito a verticalizzare. Lotta Kainz dal fondo e la cross. Inzaghi non ci arriva, attenzione al limite. Sedorf prova a liberare il destro. Sedorf va in percussione, il tiro. Rete, rete, rete. Sedorf 2-0. Allora, chi sarà l'allenatore di Capitan Kakà? Franco Ordine dal giornale. Buongiorno, ciao Ciccio. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a voi tutti. Ciao. Chi sarà l'allenatore di Capitan Kakà? Inzaghi pro termine o Clarence Seedorf in anticipo rispetto ai tempi previsti? Ma in questo momento la candidatura, quella più forte, è perché sponsorizzata dal presidente Berlusconi, è quella di Clarence Seedorf, anche se c'è qualche resistenza da parte di Galliani, che vorrebbe andare con Inzaghi, che potrebbe rappresentare una scarica di adrenalina per tutto l'ambiente. Credo che tra un paio d'ore ne sapremo di più. Nel frattempo, con quel derby, provvisoriamente riprende il regno di Mauro Tassotti, che come dire, ha ormai la caratteristica dell'uomo fidato da utilizzare per ogni evenienza. Sì, Pierluigi, se vale la domanda che ho fatto prima, che poi giriamo anche a Franco Ordine. Abbiamo sentito, cioè, ce l'ha raccontato Franco, Galliani sponsorizza Inzaghi, che però sarebbe una soluzione a tempo determinato, quindi la sua posizione presso la squadra, nei confronti della squadra, non sarebbe molto diversa paradossalmente da quella di Allegri, cioè un allenatore traghettatore, mentre Seedorf sarebbe un anticipo del futuro. Allora, nel caso in cui la scelta fosse Seedorf, giocatore che è stato giocatore non tra i preferiti, diciamo così, di Galliani, che non sarebbe tra le prime scelte di Galliani, ebbene, venisse scelto Seedorf, sarebbe un ulteriore passo verso l'uscita di Galliani? Beh, il segnale politico è quello, ma ripeto, anche la dinamica di ieri sera va, va comunque in una direzione di grande responsabilità che si prende Barbara, insomma, questo è evidente. Il punto qui è capire se vogliamo credere o no alla convivenza, che ripeto, secondo me è possibile. Posso di sembrare ingenuo, io dico che è possibile, nel senso che comunque avere due amministratori delegati è tecnicamente una cosa che si può fare e può essere anche, volendo in una grande azienda, può essere anche un'idea intelligente se ci sono aree diverse da coprire. Il punto è se Galliani quella scelta lì di ieri sera l'ha avallata, se è stato informato del fatto che stava per uscire quel tipo di comunicato oppure no. Questo mi sembra il tema caldo dal punto di vista dei rapporti. Franco Ordine, cosa ne pensa? Sì, no, il punto è questo, diciamo, dal punto di vista squisitamente formale, l'amministratore delegato con delega al marketing ha fatto una bella invasione di campo e ha licenziato in diretta l'allenatore. E quindi questo è inutile che parliamo d'altro. Franco, cioè, ma con ragione secondo te? Beh, io penso di sì, e immagino anche che a questo punto anche lo stesso Galliani fosse convinto della bontà di questa operazione. Il fatto stesso che ieri sera non abbia speso una sola parola, che non sia intervenuto, che non abbia fatto un solo intervento, è perché aveva capito che ormai la corsa era finita, il treno di Allegri era finito su un binario morto a Sassuolo, anzi a Reggio Emilia. Quindi da questo punto di vista adesso bisognerà capire se ha margine di manovra, diciamo, nella scelta dell'allenatore traghettatore. Mi sembra di capire che lo stesso Inzaghi non sarebbe favorevolissimo a un incarico a termine. Certo, ha ragione. Da traghettatore, perché, e credo che insomma lo stesso spirito e lo stesso rischio lo correrebbe comunque anche Seedorf, perché o l'uno o l'altro, comunque in questa parte di stagione finirebbero col rovinare un po' l'immagine, con lo sprecare un po' di credito che invece avrebbero pulito secco e cristallino dall'inizio della prossima stagione. Nico, provincia di Modena, primo ascoltatore di oggi, lo facciamo parlare subito. Dica. Buongiorno. Buongiorno. Finalmente posso festeggiare. Perché hanno trovato Allegri? Stasera vado al miglior ristorante di zona e vado a festeggiare. Addirittura? Allora, il bicchiere era mezzo pieno, si aspettava solo questa partita con Sassuolo, niente di più. Grazie, vi ascolto per radio. Grazie a lei. Paolo, provincia di Udine anche. Paolo? Sì, eccomi qua pronto. Dica. Al di là del fatto che Allegri abbia fatto i suoi errori, io penso che assieme a lui dovrebbe essere cacciato anche qualche dirigente che non ha comprato un difensore. Perché senza difesa non si può vincere. Sì, però io ho 69 anni, no? E non è che posso correre con mio nipote che ne ha 10, no? No, questo è vero, però lei. Però poi compro Ramiri, rimane in panchina. Io per carità posso dire affetto per Allegri, affetto e lo stimo, e penso che l'errore principale, ma gliel'ho anche detto quest'estate, secondo me l'errore principale è stato aver accettato, essersi lasciato convincere quest'estate, perché lui aveva un'autostrada aperta a Roma con la possibilità di costruire un ciclo, invece è rimasto un po' per gratitudine, un po' forse per poco coraggio, un po' perché qualcuno magari gli ha detto delle cose inesatte sulla Roma ed è rimasto al Milan. Testardaggine anche, possiamo mettere sì, pure questo, per, no? Per tanti motivi, ma tutti i motivi rispettabilissimi. La responsabilità dei dirigenti dove la mettiamo? Perché io sono quello che paga l'allenatore quando sbaglia. E non si può cacciare 25 calciatori. Però appunto, però, scusi, meglio di Bonera e Zapata di ieri, forse qualcuno, cioè, con tutto rispetto, insomma, però, cioè, Rami è stato portato a ottobre, e da quello che si dice è un giocatore di livello, un giocatore importante che può fare il centrale, può fare anche il terzino all'occorrenza, insomma, non lo so, sinceramente non lo so, anche il centrocampo che abbiamo visto ieri era poca roba, ma poi, voglio dire, non è che stiamo parlando di una sconfitta oltretutto rocambolesca, perché ieri poi il Milan alla fine poteva anche pareggiare sicuramente con i pali che ha preso, ma si parla proprio di una squadra che fuori casa ha vinto una partita su 10. di chi stiamo parlando. Comunque ne ha perse 7 in questa stagione. Se mi dite che questo Milan non è da corsa per lo scudetto, per la Champions League o per la qualificazione Champions League, io sto con voi. Se mi dite che è più debole di Fiorentina, Verona, Inter, Torino, Parma, Lazio, Genoa che lo precedono ed è appena più forte di Atalanta e Cagliari che hanno appena un punto in meno, e beh, io non ci sto. Franco Ordine. Ma io non ci sto nemmeno io. È evidente che questo è, diciamo, ieri si è chiuso un girone e lo stesso peccato mortale commesso nella partita inaugurale del campionato a Verona, partita in vantaggio e poi si è fatto addirittura riprendere e sorpassare dal Verona, si è verificato ieri a Sassuolo. Qui ci sono due evidenti caratteristiche che uniscono questo filo tra Verona e Reggio Emilia, e cioè il fatto la squadra che parte bene, che esce bene dai blocchi della partita e che poi per strada si sfilaccia, si perde per presunzione, per mancanza di concentrazione. Ieri, devo dire, nemmeno se ci fosse stato la coppia famosa storica Baresi Costa Curta, avrebbero rimediato a quello che succedeva intorno a loro, da una parte e dall'altra, centrocampo, sui lati. Scusa Franco, ma questo accade perché i giocatori non credevano comunque più in Allegri? Secondo me, guarda, è evidente con quello che è accaduto ieri che ormai non rispondevano più ai comandi. Certo. Perché se lui il giorno prima dice dobbiamo assolutamente fare il secondo successo consecutivo e dobbiamo provare a non prendere gol fuori casa e succede esattamente il contrario, e dopo una partenza così favorevole, dopo 13 minuti sei 2-0, qui vuol dire che la testa non ce l'hai per niente sulla partita. Dicono anche che i giocatori non vorrebbero Seedorf. Questo si dice e questo, insomma, è arrivato anche alle mie orecchie, ma per fortuna nel calcio non comandano i giocatori ma comandano le società. No, anche perché se non ricordo male i giocatori furono, almeno alcuni giocatori furono particolarmente importanti nella decisione, nel pressing su Allegri per rimanere quest'estate, no? Sì, ma oltre che i giocatori, la decisione maturò perché da una parte c'era Seedorf che non aveva i titoli per allenare subito e soprattutto non aveva ancora il via libera da parte del suo club brasiliano, quindi c'era questa difficoltà da una parte e dall'altra si pensò bene di dare, visto che c'era un contratto in essere che non conveniva per il bilancio del Milan, pagare a vuoto uno staff che costa anche una certa cifra. E poi non sottovalutiamo l'aspetto di Silvio, nel senso che io credo che poi alla fine non possiamo non pensare che quella decisione di ieri sera Barbara l'abbia presa dopo un consulto con il padre. No, certo, evidente. O comunque conoscendo anche nei momenti migliori, sappiamo che il rapporto tra Berlusconi e Allegri non è mai decollato, figuriamoci adesso. Ma certamente insomma è la famiglia Berlusconi che Allegri non voleva più, questo mi pare abbastanza evidente. Franco Ordine, grazie. Saluti e arrivederci, presto. Buon pomeriggio. Ciao. E Luigi Pardo, stai con me. Borsa, poi facciamo altre due chiacchiere. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Fuori, sei fuori. Tutti convocati. Allora, la notizia del giorno, come vi abbiamo detto e come stiamo raccontando, esonero di Allegri, che non è più l'allenatore del Milan dalle 11.26 di questa mattina, l'allenamento l'ha diretto Tazzotti, che andrà in panchina con lo Spezia in Coppa Italia, si attende il nome del sostituto, ballottaggio Inzaghi-Seedorf con quella dell'olandese che è la candidatura principale, olandese che rappresenterebbe anche un anticipo di futuro, ed è per questo che secondo me è l'unica via praticabile. Fossi Pippo io non accetterei nemmeno quella panchina, anche se è dipendente del Milan, oltre ad essere amante del Milan da molto tempo, però sarebbe una scelta non neanche in linea con le ambizioni di Inzaghi. Fuori, sei fuori. Chi? Inzaghi? Luigi Pardo, ci sei? Sì, no, stavo dicendo un momento da cialtrone della numerologia. Volevo dirti che dimmi. Ieri sera l'ansa di Barbara Berlusconi è stata alle 23.24, quindi alle 11.24, e stamattina l'esonero è stata alle 11.26. Sì. 12 ore e 2 minuti dopo. Sì. Di fatto l'esonero è stato quell'agenzia che tu hai citato di ieri sera, perché non, è chiaro che oggi Allegri, insomma, si aspettava soltanto la comunicazione ufficiale. Tutto in una giornata da storia del calcio, però, peraltro. Poi parliamo anche di Berardi, un ragazzino che a 19 ne fa 4 al Milan, e facendo godere la casa madre Juventus. Ragazzi, salito a 11, stasera in Tiki-Taka faccio questo blitz, parleremo ovviamente di Milan, avremo Buffon ospite, e parleremo anche di lui, parleremo di Berardi, perché 11 gol a questo punto cominciano a essere tanti, se consideriamo che ne ha fatti 11 l'anno scorso in Serie B. Sì, pensa che la Juventus riesce a vincere anche quando non gioca, cioè ha vinto ieri pomeriggio, ha fatto il record 11 di fila, ha vinto ieri sera con Berardi, mettendosi davanti alla televisione, sai Marotta che Agnelli che faccia avranno fatto, insomma. Poi c'è Roma e Napoli che guadagnano l'applauso in piedi, standing ovation alla fine della giornata d'andata, perché 44 e 42 punti rispettivamente sono un sacco di roba, però tutto ovviamente sono temi di una giornata, ripeto, a modo suo storica, nella piccola storia di questo del calcio italiano, perché è così, con la notizia del giorno, cioè quella di Allegri, che forse copre tutto. Stefano da Fermo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, niente, mi volevo allacciare al discorso che state facendo sul fatto se Barbara Berlusconi abbia invaso un campo o no, e abbia, tra virgolette, messo in un angolo Galliani. Mi sembra abbastanza oggettivo. Sì, è oggettivo, ma è anche vero, è oggettivo che la proprietà è di, se non di Barbara, di Berlusconi, quindi voglio dire, una sferzata non tanto per Galliani, ma quanto per l'ambiente, era necessaria che la desse il capo, cioè che la desse, e io credo che comunque Galliani sia stato avvisato, magari Barbara si è permessa di dare questa sferzata per guadagnare potere e forza anche mediatica verso i tifosi, verso tutti, perché ormai, ma tutti, Stefano, i tifosi nessuno guardi che è perfettamente legittimo, è perfettamente, appunto, legittimo tutto questo. L'unica cosa sta nel chiedere i ruoli, perché lei ha detto, credo che Galliani sia stato avvisato, un conto è avvisare, un conto è decidere. Galliani fino a qualche mese fa decideva, adesso viene avvisato, e poi l'invasione di campo, tenendo conto delle rispettive competenze che prima Pierluigi Pardo ha citato perfettamente, è oggettiva, come dico prima. Ecco, un allenatore che ha giocato con uno dei futuri allenatori del Milan, Massimo Oddo, ciao! Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Come va? Bene. Bene? Bene. Bene, abbastanza bene, grazie. Tuo parere sulla vicenda del giorno, Allegri via Inzaghi o probabilmente Seedorf al timone del Milan? Beh, è una vicenda che era abbastanza preventivabile, diciamo, nel calcio in generale, perché ovviamente poi quando le cose non vanno bene, e frase di circostanza, di retorica, ma vera, non è che si possono cacciare i giocatori, chi paga è sempre l'allenatore. Io credo di poter dire che quando un allenatore va via gli si attribuiscono tutte le colpe, ma poi in fondo non è così, perché è un connubio di tanti fattori, dove ognuno ha le proprie colpe, dalla dirigenza, all'allenatore, ai giocatori stessi, però purtroppo alla fine un cambio va fatto, soprattutto per cercare di dare una sterzata dal punto di vista psicologico, e credo che sia un po' il problema di quest'anno del Milan, una di quelle annate in cui magari si va un po' nell'imbuto e si fa fatica poi a riprendersi, quindi magari il lato psicologico conta più dell'effettivo poi valore tecnico che c'è in campo. No, Massimo, può un allenatore avere presa, tu hai, adesso per allenatore, hai fatto giocatore al Milan per tanti anni, alla Lazio eccetera, sei campione del mondo, può un allenatore avere presa sui giocatori quando i giocatori sanno che lui non rappresenta il futuro, che quindi vive lì giorno per giorno e peraltro sulla corda, in bilico ogni volta? No, è difficile, in questi casi bisogna contare più che altro sulle qualità umane di questi calciatori, e sul fatto che questi calciatori poi vanno in campo per se stessi, per dimostrare, non perché magari devono dimostrare al proprio allenatore. Loro devono sempre dimostrare a se stessi e ai tifosi. in primis, poi ovviamente l'allenatore per poter permettergli di schierarli in campo, però alla fine loro vanno in campo per se stessi e per i tifosi, perché qualsiasi giocatore vuole aprire il giornale la mattina dopo e vedere scritto qualcosa di positivo nei suoi confronti, quindi nessun giocatore credo possa remare contro un allenatore o una società, perché poi chi ci va a rimettere è la propria persona, quindi questo credo che sia un discorso assurdo, però è inevitabile il fatto che poi è difficile in questi casi per un allenatore che sa già che è al capolinea, comunque non in questo momento ma a fine anno, poter avere in mano uno spogliatoio a pieno. Questo è veramente difficile, poi contano anche e soprattutto i valori umani che ha questo spogliatoio. Ma Sedor fa la testa e la qualità per diventare un grande allenatore? È una domanda a cui non posso rispondere, perché non l'ho avuto come allenatore. Nessuno l'ha mai avuto come allenatore. Appunto, io quanto so, io lui lo sente, un amico, lui sta facendo il suo percorso di formazione con una squadra giovanile, la squadra giovanile del Botafogo, lui si allena in prima squadra, gioca e poi al pomeriggio allena questa squadra, credo sia under 17, da quello che mi ha detto, ed è la sua prima esperienza. Ovvio che fare il calciatore e fare l'allenatore sono due cose molto molto diverse, questo l'ho provato sulla mia pelle, ci vogliono delle qualità che sono diverse da quelle che hai avuto come calciatore, anche se poi obiettivamente le qualità umane che hai te le porti dietro anche come allenatore, però poi l'allenatore fa un ruolo completamente diverso e deve immedesimarsi in un ruolo che è completamente diverso da quello del giocatore. Il giocatore è solo, l'allenatore deve pensare a tante cose, non solo uno spogliatoio ma anche a problemi extra spogliatoio che possono venire dalla società stessa, dai tifosi, quindi deve pensare a mille altre cose. Il giocatore deve pensare solo ad andare in campo e allenarsi e far bene. Certamente, ma comunque Sedorf è uno che ha il carisma, no Pardo, ha il carisma per avere presa sui giocatori. Poi questo passaggio che sottolinea Massimo Oddo è essenziale, cioè un conto fa l'allenatore, uno il giocatore. In ogni caso avremo un allenatore delle giovanili per il Milan, perché Sedorf può liberarsi dal contratto con il Botafogo, lo ricordiamo per la cronaca, perché ha scritto che può andare via in ogni momento se non va a giocare in un'altra squadra, mi pare che sia così. Quindi Sedorf non andrà a giocare ma ad allenare il Milan, dunque trovato l'inghippo. Certamente non è un allenatore con esperienza, però nemmeno Capello lo era. Ma prima no, ma sostituzione infatti, nell'era questo. Berlusconi, via Lidl dentro Capello, Milan se non ricordo male vinse uno spareggio a Torino contro la Sampdoria per entrare in Coppa UEFA. No, ma c'è una nessuno nasce imparato, no? È una frase che a Roma diciamo spesso, è un dato di fatto, insomma. Poi è chiaro che esistono gavette, esistono percorsi. Di formazione, Sedorf sicuramente da questo punto di vista può essere considerato un azzardo, ma in qualche modo lo era anche Guardiola al Barcellona, insomma. Lo era Capello quando da manager di Mediolanum diventò allenatore in un primo momento, insomma, e poi mi sembra che nel calcio di oggi, e su questo lo sentirà anche Massimo, un po' perché tutto è diventato mediatico, perché chiaramente il carisma di un grande giocatore oggi forse è ancora più importante rispetto al passato, con i mezzi di comunicazione che ci sono, mi sembra che gli allenatori giovani possano trovare più spazio. Cioè il concetto di autorità che ci poteva essere, secondo me, 20 anni fa molto più forte, oggi mi sembra sia stato sostituito dal carisma della mediaticità di un personaggio. Mourinho è il caso sicuramente più straordinario, no? di uno che ti conquista senza essere stato un grande giocatore, ma ti conquista per quello che è anche mediaticamente, per quanto è figo in tutte le sue apparizioni. Questo secondo me i calciatori un po' oggi lo sentono, e Sedorf secondo me ha tutte le caratteristiche per poter essere uno accettato e di carisma. Poi non lo so, insomma, appunto la palla di vetro non ce l'abbiamo. Cosa ne pensi, Massimo? ma penso che siano due discorsi diversi. Un conto è il carisma che tu puoi avere come calciatore, un conto è il carisma che puoi avere come allenatore. Tanti atteggiamenti che tu magari hai naturali come calciatore magari possono dar fastidio ad allenatore, e quindi l'approccio che puoi avere verso uno spogliatoio non è mai sicuro e certo, bisogna vedere come reagisce questo spogliatoio e che tipo di intelligenza ha questo spogliatoio per accettare un personaggio con un carisma tale, perché lui è inevitabile dirlo che Clarence è unico per il suo carattere. Lui era uno capace in campo di fermare l'allenamento e contrastare quello che diceva l'allenatore, quindi se lo faceva come calciatore, figuriamoci come allenatore. E non credo che sia un ragazzo, credo che sia un ragazzo che porterebbe avanti le sue idee senza ascoltare nessuno, è convinto di quello che dice, e questo può essere anche un'arma a doppio taglio, sì, perché certo. Poi ci sono diversi tipi di conduzione dell'allenatore. Quando si studia la psicologia dell'allenatore, quando lo studiamo a Coverciano, ci insegnano che ci sono varie metodologie di conduzione, che sono quella completamente autocratico, quello di prendere decisioni per sé senza ascoltare nessuno, quello di ascoltare e poi fare come si vuole, o quello di ascoltare e cambiare in base alle esigenze della propria squadra. Quindi, però ci sono allenatori che adottano un sistema, vedi Capello, ci sono altri che adottano un altro sistema, vedi Ancelotti, ma tutti e due hanno vinto. Sicuro. E questo da cosa dipende? Dipende dal gruppo che è a disposizione, dall'intelligenza che ha questo gruppo di recepire quello che gli si vuole passare. Certo. E poi dall'intelligenza, la disponibilità che hai tu anche a sentire i consigli che vengono dall'altro, perché al Milan la politica è questa. Grazie Massimo Oddo, ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi. Ciao. Grazie per Luigi Pardo, buon tiki taka stasera. A tiki taka 23:30 Italia 1, Buffon, ma anche Milan, Inter, post partita Inter Chievo, Napoli, Roma, tutto. Sentiamo domani. 23:30, vota Antonio. 23:30, tiki taka, vota tiki taka. Ciao. Parlare di un mio esonero credo che non abbia senso, anche perché credo che io non lo possa decidere. Fuori, sei fuori. Tutti convocati. Strade in diretta. Buon pomeriggio, 2 chilometri di coda dopo un momentaneo blocco del traffico per un incidente sulla 12 Genova-Livorno tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Code di 2 chilometri anche in uscita da Milano, ma per lavori sull'autosole tra San Donato e la tangenziale ovest verso Bologna. Ripercussioni con code anche sulla tangenziale est verso l'autosole a partire da Piazzale Corvetto. Rallentamenti poi per un bus in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino tra Baronissi e l'innesto con la 3 Salerno-Reggio Calabria in direzione Salerno. Infine, per lavori anticipiamo la chiusura questa notte dalle 22 alle 6 di domani della 24 Roma-Teramo in direzione Roma tra Lunghezza e Sette Camini e tra il raccordo anulare e via Togliatti. È tutto, prudenza alla guida e buon viaggio. Tutti convocati. Parte Totti sulla barriera, poi l'anticipo nei confronti di Nainggolan e il gol in rovesciata di Florenzi, ha segnato Florenzi. Se io dovessi fare un gol del genere penso che smetterei subito, non mi alzerei più la terra penso. Complimenti a Alessandro perché ha fatto veramente uno dei gol più belli della Serie A. Fa una piega, no? Quello che dice Totti, meraviglioso gol di Florenzi, però lui forse riusciva a farlo quel gol 7-8 anni fa, adesso fa altre cose, ovviamente calcistiche, il pupone. Stefano Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dello spazio. Dica. No, io intervengo sul esonero di Allegri, diciamo che era un po' nell'aria ieri sera, tutto quello che era stato detto in questi giorni. Sì, non nell'aria, era no, nei fatti. Mi dispiace, io non vorrei che questo esonero diminuisse il lavoro ed il valore di Allegri. Io vorrei ricordare solo in questi 4 anni, un primo anno un risultato a sorpresa dello scudetto, il secondo anno vorrei ricordare insomma Muntari, saremmo arrivati al secondo scudetto consecutivo, il terzo anno con una squadra completamente rinnovata, se non tolto gli elementi migliori, ha fatto un recupero record quest'anno indecifrabile, come è indecifrabile il suo leader che è Balotelli. Credo che Balotelli questa cosa ci abbia messo molto molto del suo per non far funzionare in Milan. Ma e poi pare scoperto la trasformazione di Abate Terzino, De Sciglio. Io credo che Allegri abbia fatto un buon lavoro, ma io non discuto sul fatto che Allegri abbia fatto un buon lavoro, anzi nel complesso la scorsa stagione è stata la migliore di Allegri nel rapporto qualità della squadra a risultati. Il primo anno, come ricordava, ha vinto lo scudetto, il secondo l'ha perso perché di fatto ha perso lo scudetto contro la Juventus con un Milan che sembrava più attrezzato rispetto alla Juventus, che probabilmente era più forte della Juventus. Nella terza stagione ha fatto molto bene con quel terzo posto acchiappato di rincorsa, e quest'anno però non c'erano le condizioni secondo me, quindi non credo a quanto dice lei, cioè sul fatto che Balotelli abbia remato contro, che Balotelli da presunto leader tecnico di questa squadra possa aver messo del suo un esonero di Allegri, secondo me la condizione intera era impossibile da affrontare per un allenatore costretto a danzare sul filo una partita sì e l'altra pure, esautorato, già licenziato, già sostituito per la prossima stagione. Insomma, situazione almeno per il nostro calcio inaccettabile, non in valore assoluto magari, non voglio dimenticare che c'è un signore che oggi si è ritirato, è andato in pensione, ma che l'anno scorso da allenatore licenziato a gennaio in tronco ha vinto, ha fatto il triplete, mi riferisco ovviamente a Joop Heynckes. In questa giornata su modo storica per il calcio italiano, Juventus dei record, 80 anni dopo batte a distanza ovviamente la Juventus che negli anni 30 ha vinto 10 partite consecutive e ha vinto poi 5 scudetti. La squadra di Conte è avviata verso il terzo, però di questi record ha parlato l'allenatore della Juve, lo sentiamo. Sicuramente è stato raggiunto un traguardo parziale straordinario, il fatto che nell'intera storia calcistica della Juventus nessuna squadra, sapendo benissimo le squadre che sono state alla Juventus, abbia raggiunto 11 vittorie consecutive, fa veramente riempire d'orgoglio e soddisfazione. Ho ringraziato i ragazzi perché meritano un plauso, perché tante volte il calcio poi va talmente di fretta, va talmente veloce che alla fine non riesci neanche a goderti degli step straordinari come, ripeto, quello che è avvenuto oggi. Tra i vari messaggi, Seedorf e Balotelli nello stesso spogliatoio, vorrei essere una mosca, scrive Carlo da Treviso. Oppure, altro messaggio, Allegri l'unico allenatore che negli ultimi 15 anni è riuscito a non far vincere il campionato a Ibrahimovic. Giovanni scrive, Inzaghi ha il carisma, non sono d'accordo Giovanni, che Inzaghi abbia il carisma di una cartella di Equitalia, faceva dei gol per il resto Milano Marittima, non penso sia così. Alex, provincia di Crotone, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo parlare di Inter, non so che... Ma so certo, che ma volentieri, volentieri. Allora, volevo fare una considerazione su Branca, che secondo me da dopo il triplete non ha azzeccato più un colpo. E nonostante questo, anche i nostri giovani li abbiamo fatti crescere così e dopo li abbiamo regalati un po' in giro per l'Europa. Sia gli Under 21 che sono andati in Germania, sia Coutinho, eccetera, eccetera. E dopo volevo fare l'ultima cosa. Ma non cosa. Mi sembra che stiano facendo comunque un percorso da fenomeni. Ma comunque dopo ci ritroviamo sempre nel Milan dopo un po' di anni. Quindi vedi Balotelli, lo stesso Santon andrà sicuramente anche al Milan. Ma Santon, per Santon si parla di altre, almeno dicono, leggevo notizie di mercato, si parla di altre piste inglesi. A proposito di notizie di mercato, sa che ieri ha visto che c'era David Moyes, allenatore dello United, che benissimo lo sta andando peraltro, che era a Cagliari in quello stadio orripilante, in quello stadio in civile, a vedere Cagliari-Juventus. Si diceva è lì per Astori, è lì per Marchisio, invece a quanto pare era lì per Vidal. Dica. Se siamo ancora in diretta gli dico tanti di quei nomi, tipo anche Destro e anche tanti altri che abbiamo deciso di puntare sui giovani e li abbiamo regalati tutti. Poi sì, cambiando argomento, l'ultima cosa veloce che penso che una squadra di vertice come l'Inter in 70 partite ha avuto due calci di rigore, a me qualche dubbio mi viene. Sì, qualche dubbio mi viene, ma a patto che il dubbio non diventi alibi, perché a quel punto l'alibi serve a coprire delle reali mancanze di questa squadra e degli errori che sono stati fatti anche da Mazzarri. Invece chi continua a fare benissimo, secondo me è il momento chiave della stagione della Roma, l'ho detto molte volte, perché dopo la sconfitta pesante di Torino, dopo gli schiaffi di Torino, per la Roma quella di ieri con il Genoa in casa era una partita chiave per molti aspetti, ne è uscita benissimo la Roma. Sentiamo Garcia. Io volevo vedere una squadra con un atteggiamento grande, abbiamo visto una personalità forte di ogni giocatore e va bene, 44 è il record della Roma dopo 19 partite, dobbiamo continuare così perché c'è ancora una partita in casa la prossima settimana e dobbiamo sfruttare questa cosa. Pietro su Twitter, Seedorf e Inzaghi, adesso nessuno dei due da giugno Seedorf, Pippo non merita di nominare il ricordo, va bene, però un allenatore Pietro bisogna pur prenderlo e secondo me se la scelta per l'anno prossimo è, ed è così, Clarence Seedorf, visto che ci sono le possibilità legali, tanto vale anticipare i tempi e provare quantomeno a costruire qualcosa per il futuro, perché questo, di questo il Milan ha bisogno, cioè di costruire, di dare un'idea di costruzione per il futuro, cosa che in questo momento non c'è e che con Allegri non poteva esserci. E questo era, questo è il punto fondamentale, secondo me, della vicenda. Lo sapeva lui, lo sapevano i giocatori, lo sapeva la società. Dunque, come si poteva pensare in questa posizione di classifica che nulla può promettere di costruire qualcosa per il futuro con un allenatore che non ci sarà più? Domanda cui oggi è arrivata una risposta. Roberto Pavia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che per quanto riguarda Allegri, avevo cercato altre volte dicendo che era un allenatore mediocre, perché l'unico bel risultato che sono stati fatti negli ultimi, che ha più valore secondo me, è il quarto posto di Leonardo, più che lo scudetto che ha vinto Allegri quando non c'era nessuno, secondo l'anno dopo l'ha perso, avvallandola anche la vendita di Pirlo, che è una cosa che per un allenatore è come vale, come non so, per uno che fa il chirurgo invece di togliere la collecita e togliere l'appendicite. Ma a parte questo, poi c'è una grande colpa del presidente e la società, perché la campagna acquisti è sempre mirata negli ultimi anni a quel minimo di arrivare in Champions per una questione di sopravvivenza. Quindi se un presidente non investe, anche il più bravo allenatore del mondo non può far niente. Sì, però questa è un po' una contraddizione in termini, Roberto. Cioè lei mi dice Allegri non ha nessun merito nello scudetto vinto, e questo non è vero, perché ci sono altri che scrivono il terzo posto l'anno scorso sarebbe merito di Allegri, ma anche il film del calcio, il film del campionato è merito di Allegri in quanto allenatore del Milan, che l'anno scorso partito malissimo e poi riuscito a giocare un grande girone di ritorno, così come merito di Allegri anche lo scudetto vinto in quanto allenatore di quella squadra. Non approvo il discorso ha vinto che non c'era nessuno, perché non è così. Quindi merito suo per il suo ruolo di allenatore di quanto ha fatto nel Milan in queste tre stagioni, nelle quali probabilmente ha steccato la seconda, non la prima e la terza. È evidente che la cessione di Pirlo sarà sempre un appunto che si potrà muovere ad Allegri in quanto allenatore del Milan, perché quello è stato un errore. Poi dite voi se è stato un errore cederlo in valore assoluto perché aveva finito il ciclo in quella squadra, cosa che può anche essere fisiologica, o se l'errore più grande è stato regalarlo alla Juventus, che su Pirlo ha costruito praticamente tre scudetti. Questo ditemelo voi. Poi per il resto non è una contraddizione in termini. Quanto diceva l'ascoltatore, allora è colpa di Allegri, però è colpa della società perché gli hanno comprati i giocatori. Dobbiamo capirci. Secondo me questa pessima stagione del Milan è colpa un po' di tutti, il che è banale, ma soprattutto è colpa della situazione che si è venuta a creare con un allenatore, ripeto, di fatto privato di ogni potere prima dell'inizio della stagione. Qual è stata la colpa di Allegri? Secondo me quella che abbiamo detto prima con Pierluigi Pardo, cioè quella di non seguire, non so se prima o poi lo dirà, lo ammetterà il rimpianto, di non seguire un'altra strada, un'altra pista, vuoi per poca convinzione nei confronti dei progetti della Roma o se per uno spirito di una testardaggine molto, molto toscana. Torniamo subito dopo il giornale radio perché vorrei parlare del principino di Sassuolo. A dopo. Il potere logora chi non ce l'ha, in questo caso la pressione, la panchina del Milan mette molta pressione a quelli che non ce l'hanno. Fuori, sei fuori. Tutti convocati. Tutti convocati. Sassuolo, pallone per Berardi, attenzione, Berardi in rete! Berardi, Sassuolo torna in partita, ottavo gol in campionato per il talento del Sassuolo. Attenzione a Bonera che non riesce a controllare, parte Berardi in area di rigore, è chiuso, grande recupero di Bonera, poi ancora Berardi, rete! Un gol incredibile, il pari del Sassuolo, doppietta di Berardi. Palla in area, attenzione, Berardi, rete! Berardi, tripletta! In 40 minuti, tre gol al Milan. Buona l'apertura, c'è Kurtic, la mette in mezzo, Berardi, quadripletta, non ci sono più parole, 4 gol in 47 minuti al Milan. Ma il principe di Sassuolo è ancora reggente, non è ancora Domenico Berardi, ma è sempre Leo Turrini. Ciao Leo. Ciao Carlo. Allora, per noi è come il giorno dopo Italia-Germania 4-3. Sì, non faccio fatica a crederlo. Mentre Rio Ferdinand su Twitter scrive: se non danno il pallone d'oro a Ronaldo scendo nudo per strada a protestare. E ha ragione, secondo me non scende nudo per strada, ma il pallone d'oro verso le 19:30 dovrebbero darlo, come giusto, Cristiano Ronaldo. Poi vediamo, questa è un'altra storia che vi racconteremo domani. La storia di oggi è invece Domenico Berardi. Leo, ma raccontami i tuoi rapporti con questo ragazzino. Beh, intanto mi devi lasciare dire una cosa, che il Milan aveva Honda, ma ha sottovalutato il fatto che il Sassuolo disponeva di una Kawasaki con motore Suzuki e telaio Nissan, che il nome di fabbrica è appunto Berardi. Questo è, credo, spero, il protagonista anche futuro di una grande storia italiana, perché sai che è stato scoperto quasi per caso durante una partita di calcetto. Sì. Lui era venuto a trovare il fratello, è stato notato da un osservatore del Sassuolo che lo mise immediatamente sotto contratto e poi ha cominciato a fare sfracelli in Serie B e tra le altre cose gironzolava attorno al liceo scientifico del nostro paesino. Sì. Appunto Sassuolo, che da ieri è conosciuto anche in Giappone, sai che c'era la diretta in Giappone. Beh, certo, potere di Honda. Certo. E quindi impareranno a pronunciare Sassuolo in dialetto nipponico e insomma, e lui girava intorno a questo liceo scientifico dove andava a scuola anche una delle mie figlie. Le ronzava intorno, insomma. No, ero io che speravo, dicevo, sai, chi di noi non vorrebbe non vorrebbe imparentarsi con un futuro fuori classe del calcio nazionale, ma immagino che abbia fatto delle scelte differenti lui e anche la mia rampolla. Meno male, lasciami dire una cosa in più. Sì. Che adesso è molto di moda, parliamo tanto di nazionale in prospettiva, Pepito Rossi che si è fatto male, Balotelli eccetera. Beh, insomma, pensateci a portare questo ragazzo da Sassuolo. No, ma pensarci si pensa, Leo, sai, il problema qui è lui è un talento fulminante, no? Questo si vede. Poi i giocatori si scoprono strada facendo. Purtroppo qui c'è un po' la tendenza a dire: ah, hai fatto due belle gare, ti porto alla Ferrari, per usare una tua parafrasi. Sì, hai ragione, però guarda, questo ha veramente dei numeri, cioè non è che ha fatto 4 gol ieri sera, voglio dire, Questo qui sta giocando in una squadra appunto come Sassuolo, che come risorse sappiamo insomma non essere il Real Madrid, dato che prima evocavi Cristiano Ronaldo, insomma ha dei numeri impressionanti come gol, come assist, come continuità. Non a caso, guarda, te lo dico, quelli della Juventus meritano i risultati che hanno perché ci sono già arrivati con un anno di anticipo su questo giovanotto. Sì, sì. No, ma ieri hanno venduto due volte. Non so cosa potrà fare nel futuro della sua carriera, dato che non diventerà mio genero, però al di là di questo passaggio familiare negativo, indiscutibilmente secondo me, e non credo solo secondo me, è una promessa assoluta. Poi magari si perde, non lo so, insomma, hai capito? Sì. La nostra Kawasaki, Suzuki, Nissan, la risposta Honda, ecco, chissà in Giappone saranno tutti lì che si chiedono questo Berardi, da chi è, capito? Bellissimo. Peccato che non andiamo a chiamandola, se no diventava, ma diventava sì, un però semidio. Se si tinge magari i capelli, sai, arancione adesso, può essere. Ma sì, no, viviamo in questa dimensione dominata dall'esigenza di comunicare in maniera anche strampalata, no? E allora magari questo qui, se si presenta in campo con un'acconciatura fucsia, sono convinto che poi fa impazzire, esplodere i social network. Però è una storia molto bella, devo dire. Sì, quella di Berardi è bellissima, bellissima. Sì, no, che nel calcio italiano siamo così tristi tutti in generale, no? Così depressi, che forse abbiamo anche bisogno dell'apparizione di nuove speranze, di nuove promesse. Poi dopo, ripeto, staremo a vedere, tu mi insegni. Abbiamo bisogno di vivere in maniera un po' fantasiosa, abbiamo bisogno della fantasia, sì, perché sì, guarda, del sogno, che... no? Bravo. bravo, bravo. Noi siamo un paese nel quale in generale sta, anzi ormai già è sparso, diffuso il virus della rassegnazione. Allora io ci pensavo ieri sera vedendo questa partita, pensando ai giapponesi che debbono pronunciare Sassuolo, no? Questa è una storia molto italiana, se vogliamo, l'Italia di una volta, no? Che ti riporta indietro anche di 35 anni, 36, hai presente Paolo Rossi in Argentina nel 78, come Cabrini, no? Cabrini a 21 anni, sì. Ecco, perché no? Una volta non solo nel calcio, in Italia riuscivamo a trovare delle risorse inattese, inaspettate, che poi si entusiasmavano e ci regalavano anche un po' di euforia per la nostra quotidianità. Questa cosa qua di Berardi è bellissima, poi mi dispiace per Allegri. Sì, ieri non grande giornata per gli allenatori livornesi, tra l'altro esonerato anche Nicola dal Livorno, però hanno preso Attilio Perotti. Io sono dell'Inter, allora aspetto di vedere cosa combina Mazzarri stasera col Chievo. Lì ti volevo. Ricordi l'altro giorno Genegnocchi nel suo rompipallone sulla Gazzetta, mi ha fatto molto ridere, anche tu hai fatto outing dicendo sì, non sono indonesiano e non ho un euro. Oggi Toira invece ha detto, e questo non l'ha scritto Genegnocchi, abbiamo bisogno di vendere per creare le adeguate condizioni economiche per comprare. Queste sono quelle storie invece al contrario di quando ci siamo appena raccontati, che sì, deprimono un po', no? Sì. No, anche se tu non sei interista, perché voglio dirti, allora, non so, il Catariota compra la squadra di Parigi, il Russo aveva preso il Chelsea, arrivano i magnati al Manchester City lì, sì, da Abu Dhabi, no? Tutte le volte che arriva un padrone da fuori, che non sai mai poi se è un magnato o un magnaccia, sì, però comunque ti compra, se compra, certo, no, compra un paio di superstar così, no, di default. Siamo in Italia, l'Inter te la compra un indonesiano che dici, i miei idoli sono Fresi e Ventola e le prime cose da fare sono le cessioni di Palito Pereira, è già lì comincia a riflettere. Insomma, questo, hai capito, rimani un attimo basito, no? Ti poni delle domande, poi come cantava Lucio Battisti ormai ahimè 34 anni fa, lo scopriremo solo vivendo, sì, anche questo Toir, non lo so nemmeno io. Comunque stasera l'Inter gioca una partita scivolosissima in casa contro il Chievo, perché fosse Terò dopo un quarto d'ora, bam, metti un lampo così, poi San Siro comincia a mugolare o a mugugnare o peggio, sì, e poi diventa una situazione credo, ma difficile, sì, e interessante. Sai, il presente di Milano nel calcio, no? Se tu pensi che siamo proprio nel quarantennale della prima Coppa dei Campioni dell'Inter, l'anno scorso sono stati 40 anni da quella del Milan di Rivera e Altafini, c'è anche quella bellissima mostra di Elenio Rocco, adesso hai un po' quasi la sensazione, no? Che questo declino calcistico poi possa anche essere la fotografia forse di un malinconicamento che non riguarda solo il pallone. Io vorrei citare la via Gluck, Adriano Celentano. Senti, invece, cose qui, c'è chi scrive che il Milan deve imparare dal Sassuolo, che prima delle partite mette Guns N' Roses. Però al di là di questo, io voglio chiederti un'altra cosa invece seria: come sta Schumi? Che notizie hai? Ah, guarda, siamo tutti in attesa di notizie, nel senso che è la classica situazione della persona che ha avuto un trauma violentissimo, fortissimo. I medici, secondo me, fanno molto bene, non dicono nulla. Già il 31 di dicembre fecero sapere che si sarebbero espressi soltanto in presenza, appunto, di novità. Io credo che il momento decisivo sarà quello in cui proveranno a interrompere la sedazione artificiale, certo, il coma indotto. Certo. Lì si potranno capire se ci sono i margini di recupero e quali siano. Poi sai, questa cosa devo dire struggente, anche perché Schumacher, forse abbiamo già parlato tu e io, è sempre stato l'uomo della velocità, no? I suoi record, le sue vittorie. E adesso è, diciamo così, costretto a scommettere sulla lentezza, sì, perché più si riesce a rallentare il tempo come conseguenza di questo spaventoso schianto, più forse aumentano le speranze di rivederlo, insomma, tra noi. È tutto molto molto molto particolare, sì, c'è un comprensibile, credo, per tutti noi, non solo velo di apprensione, ma anche molta malinconia, perché insomma... Beh sì, più che altro molta attesa, preoccupazione, Leo, perché sì, siamo lì ad aspettare notizie. Per quanto mi riguarda, in ossequioso, rispettoso e speranzoso silenzio, poi quello che succederà, sull'inchiesta, sulla dinamica del incidente, sono cose che a me interessano abbastanza poco. Hai ragione. Sì. Poi devo dirti, Carlo, io ho apprezzato che dopo una decina di giorni, purtroppo, di carnevale mediatico, si sia compreso da parte di tutti, televisioni, social network, anch'io ho apprezzato, eccetera, che aveva ragione poi la signora Corinna, la famiglia, quando fece quell'appello dicendo per favore datevi dei medici, vi faremo sapere. Esatto, bisogna solo sperare, per chi ci crede pregare, e poi insomma vedremo che notizie arriveranno, caro Cavi. Senti Leo, ti saluto, ti ringrazio, e se capita, se ti trovi Berardi nel soggiorno di casa, fammi sapere. Se diventa tuo genero, potrebbero aprirsi delle trattative interessanti, perché sai com'è poi, no? Insomma, adesso noi diciamo già la crisi, gli unici che ancora hanno dei guadagni da quello che leggiamo cospicui, a parte se trovano Toir che bisogna tagliare, vendere, liquidare tutto, sono i calciatori delle grandi squadre metropolitane, hai capito? C'è chi cerca la fortuna col gratta e vinci, chi magari dice, ma chissà, forse un genero con i capelli color fucsia, sarebbe neanche male. Never say never again, è vero. Poi vai anche tu alla Juventus. Ciao Leo. Un abbraccio, ciao a tutti. Grazie a Leo Turrini, Franco Piantarelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Oh ragazzi, tutti convocati, domani pomeriggio dopo il GR delle 14, vi aspetto. Convocati.